Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Decreto rilancio verso il via libera, stop all'IRAP di giugno, proroga della cassa integrazione e reddito d'emergenza, super bonus edilizio. Intesa anche sui permessi di lavoro per 500.000 stranieri tra braccianti, colf e badanti. Fase 2 al via anche in Francia, da oggi arriva la ripresa graduale delle attività commerciali delle scuole, libertà di spostamento entro 100 km. Contagi in crescita intanto in India, la Russia con 220.000 positivi supera l'Italia, rallenta il numero di vittime negli Stati Uniti. Silvia Romano attesa oggi a Milano, è viva ed è la cosa che conta, ora un po' di rispetto, dice il ministro degli Esteri Di Maio. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24 con tutte le notizie. Cominciamo con l'atteso via libera, dovrebbe arrivare oggi dopo molti rinvii il cosiddetto decreto rilancio. Il premier Giuseppe Conte sembra avere trovato una quadra all'interno della maggioranza su alcuni punti, su altri si sta ancora limando. Uno dei punti più in discussione è stato quello che riguarda la sanatoria di alcune centinaia di migliaia di aspiranti lavoratori in regola, e di questo parleremo tra un attimo, ma in primo piano ci sono le misure a sostegno dell'economia e dei cittadini. Sentiamo. Un lungo vertice notturno tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i rappresentanti dei partiti di maggioranza è servito a cercare una soluzione per sciogliere gli ultimi nodi del decreto rilancio. Sul tavolo due temi sollevati da Italia Viva: la regolarizzazione dei lavoratori migranti, sollecitata dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova, e la questione IRAP che le imprese chiedono di cancellare. Sul fronte fiscale, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri lancia la proposta di abbonare il saldo a conto IRAP di giugno. Sciolti gli ultimi nodi, il decreto rilancio da 55 miliardi con aiuti per famiglie, lavoratori, imprese e sanità approderà in Consiglio dei Ministri, che non è escluso si possa riunire in serata. Fra le misure in arrivo ci sono alcune conferme, come i sussidi e gli stanziamenti per la cassa integrazione previsti dal decreto Cura Italia, ma anche nuovi interventi per i lavoratori rimasti finora esclusi a partire dai collaboratori domestici. Previsto un reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà e per aiutare le imprese che si devono adeguare alle norme sulla ripartenza, il governo intende stanziare 2,5 miliardi. Bar e ristoranti poi non pagheranno la TOSAP sui tavolini all'aperto. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto l'Istat certifica il calo delle attività economiche con i suoi dati a marzo. Le condizioni della domanda, ma anche la misura di lockdown, hanno determinato un crollo, scrive l'Istat, della produzione industriale con una riduzione del 28% rispetto a febbraio e del 29% su base annua, che spiega l'Istat è la maggiore della serie storica disponibile, cioè a partire dal 1990. All'interno del decreto rilancio, dicevamo e sentivamo, anche le misure per il contrasto dell'epidemia a livello sanitario, quindi il rafforzamento degli ospedali, 3,5 miliardi. Sentiamo. Salute in primo piano, oltre ad aiuti ad imprese e famiglie, nell'ultima bozza del DL rilancio, un maxi decreto in 258 articoli per cure primarie, ospedali, personale e 3.800 contratti in più di specializzazione. E poi un premio di 1.000 euro per il personale sanitario in prima linea sul fronte Covid-19. Niente IVA su mascherine, gel disinfettanti e su tutti i dispositivi di protezione antivirus nel 2020, e lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 gennaio 2021. Ma l'elenco di novità è ancora lungo, e questa nuova iniezione di finanziamenti alla sanità è divisa in 4 parti. La prima, l'assistenza territoriale, per cui le regioni hanno un ruolo di primo piano, e risorse per il tracciamento, la ricerca di locali per i pazienti Covid, per assunzioni a termine di infermieri e assistenti sociali. La seconda riguarda interventi sul personale sanitario, personale medico con assunzioni a tempo determinato e indeterminato, oltre ai contratti di specializzazione medica in più. E infine la parte per gli ospedali, che sarà affidata alla gestione del commissario Arcuri in coordinamento con le regioni per una più rapida attuazione delle misure di potenziamento della rete. Ed è una corsa contro il tempo per recuperare gli esami medici rinviati per il lockdown. Entro dicembre sono quasi 4 milioni gli screening oncologici che dovranno essere effettuati per mettersi in pari con gli anni precedenti. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Scopriremo nel pomeriggio poi se effettivamente la attesa regolarizzazione di circa 500.000 braccianti, ma anche colf e badanti, di cui si è parlato molto nelle ultime ore, ha effettivamente i connotati di quello che è stato possibile sapere alla vigilia. E allora cerchiamo di capire cosa succederà. Emersione del lavoro nero con doppio canale, anche con permesso di soggiorno di 6 mesi, ma solo dimostrando di aver già lavorato in quel settore. Su questo compromesso dovrebbe reggersi l'accordo raggiunto nella notte nella maggioranza sul tema della regolarizzazione dei migranti. Il tema riguarda in primis l'agricoltura, che ha bisogno di 250.000 stagionali che quest'anno non arriveranno dai paesi dell'est causa coronavirus. In agricoltura si stimano 180.000 lavoratori oggi in nero, mentre sarebbero 200.000 nel settore colfe badanti gli stranieri irregolari. La norma da inserire nel decreto rilancio riguarderebbe solo questi due settori e avrebbe un doppio canale: la regolarizzazione del lavoratore italiano o straniero su richiesta del datore di lavoro che propone un contratto di emersione. E poi, nel caso degli stranieri extracomunitari irregolari, anche la possibilità di avere un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, ma solo se si può dimostrare di aver già lavorato in quel settore con tanto di certificato dell'Ispettorato del Lavoro. Un paletto chiesto dai 5 Stelle che potrebbe rivelarsi tutt'altro che facile da produrre. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sulla messa a punto della fase 2 delle attività commerciali che possono ripartire dopo le tensioni dei giorni scorsi, oggi nuovo tavolo tra il governo e le regioni. In Alto Adige sono riaperti bar e ristoranti, parrucchieri e musei, allentamento delle restrizioni attivo da oggi anche in Liguria, sempre meno fortunatamente i contagi in Italia. Sentiamo. Entro giovedì avremo i primi dati regione per regione, poi valuteremo, così il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, sulla possibile riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri il 18 maggio. Io spero, guardi, che con la differenziazione territoriale possano ripartire ovunque e poi sarà ovviamente responsabilità della singola regione avere il quadro dei dati a cui facevo riferimento prima. Regole condivise o facciamo da soli, ribadiscono i governatori che aspettano le linee guida nazionali, sottolinea il presidente della Liguria Giovanni Toti, pronto a riaprire da lunedì prossimo anche le spiagge. Intanto si è mosso l'Alto Adige, da oggi tornati al lavoro parrucchieri e ristoratori, è la prova del fuoco, spiega il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi. Siamo molto diligenti, quindi sono molto fiducioso che l'economia possa riprendere, però rispettando tutte le regole e la sicurezza, questo è fondamentale. Senza risposte siamo pronti ad andare in autonomia, le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora allarghiamo lo sguardo a livello globale con l'andamento del contagio, vittime in calo fortunatamente negli Stati Uniti, mentre si registrano pochi nuovi casi in Cina, Wuhan, e si cresce soprattutto il contagio in India, ma anche in Russia, dove con oltre 220.000 positivi il paese ha superato l'Italia. Mentre l'Europa prova a ripartire con la Francia che ha riaperto negozi e attività e la Svizzera che oggi ha riportato in classe gli scolari più piccoli, in Oriente torna la paura dei contagi. La Cina ne ha registrati 17 nuovi, 5 dei quali a Wuhan, città epicentro della pandemia dove il lockdown è ormai terminato. Contagi che salgono anche a Shula, sempre in Cina ma vicino al confine russo, dove le autorità hanno ordinato la chiusura di tutte le attività commerciali. 35 nuovi casi anche in Corea del Sud, il livello più alto dal 9 aprile scorso. E se il Giappone ha registrato ieri 70 nuovi contagi e 8 decessi, l'India, di nuovi casi, ne ha subiti più di 4.000, il livello più alto in 24 ore dall'inizio della pandemia. Accelerazione anche in America Latina, dove sono oltre 360.000 i contagi, 18.000 nelle ultime 24 ore, il Brasile si conferma il paese più colpito. Una timida buona notizia arriva dagli Stati Uniti, che hanno registrato l'incremento più basso di decessi da marzo, 776. Preoccupa invece la Russia, dove nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 11.000 contagi, nuovo record. Con oltre 221.000 casi totali, la Russia ha superato per numero Italia e Regno Unito. Poco più di 2.000 invece decessi dichiarati, nel pomeriggio Putin parlerà alla nazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Silvia Romano è viva, sta bene ed è questa l'unica cosa che conta. Adesso per lei un po' di rispetto, lo chiede il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Per lei oggi l'arrivo a Milano. Silvia Ibiva sta bene adesso, per favore un po' di rispetto. Così su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il giorno dopo l'arrivo a Roma della volontaria italiana rapita 18 mesi fa in Kenya. Fonti della Farnesina hanno anche smentito presunte tensioni tra il premier Conte e lo stesso Di Maio in merito alla liberazione. Per Matteo Salvini salvare una vita è fondamentale, anche se da parte delle istituzioni sarebbe stato preferibile tenere un più basso profilo. Ai magistrati che a Roma ieri l'hanno ascoltata per ore, Silvia ha ricostruito con grande precisione i 18 mesi di prigionia, dai primi giorni drammatici trascorsi a piangere alla conversione spontanea all'Islam, dai tanti covi cambiati in Somalia alla promessa dei carcerieri di non farle del male. Un sequestro a scopo di estorsione commissionato dai terroristi di Al-Shabaab. Tra i tanti aspetti da chiarire, ora il presunto pagamento di un cospicuo riscatto per il rilascio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Terremoto all'alba alle porte di Roma, una scossa di magnitudo 3.3 e secondo quanto accertato sinora non ci sarebbero stati danni. Sentiamo Salvatore Stramondo, direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Abbiamo registrato una scossa di magnitudo 3.3, quindi un evento sismico di magnitudo modesta. Siamo in una zona, peraltro, in cui storicamente non si sono mai verificati eventi di magnitudo rilevante. Quindi è un'area in cui questa sismicità, che poi è tipica del nostro paese, nel senso che noi registriamo ogni anno centinaia o addirittura migliaia di eventi di questa magnitudo, abbiamo visto che effettivamente è stato risentito in tutta l'area urbana di Roma e anche nell'area dei Castelli, quindi molto diffuso l'area di risentimento per l'appunto. Torniamo a parlare della fase 2 con l'esperimento di tre piccoli comuni piemontesi che provano a riaprire alcuni posti all'interno di asili, nidi e materne. Sentiamo come. Si torna in classe ma non a lezione, accade domani in Piemonte dove tre sindaci hanno dato il via libera a una sperimentazione per 36 bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. Non ci saranno le maestre ad attenderli però, ma gli educatori di una cooperativa pagata dal comune. Non si farà quindi lezione, ma è un progetto di assistenza ai minori mentre i genitori lavorano. Il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani. Dai 3 ai 6 anni il parametro di un educatore ogni 4 bambini, invece per l'elementare di uno ogni 5. Sono classi di 30 metri quadrati, quindi viene rispettato il distanziamento. Il servizio costerà alle famiglie 200 euro al mese più 100 di mensa. Sembra che la ministra Azzolina non abbia gradito la fuga in avanti e per la consigliera regionale 5 Stelle Frediani è un azzardo sanitario. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di scuole, riaprono in Francia oggi perché questo sarà il primo argomento della seconda parte di Effetto Giorno. Oggi la Francia inizia l'avvio graduale alla normalità, la sua fase 2. Sentiremo come e quali sono le scuole che sono riaperte insieme alle attività commerciali. Poi, sempre nella seconda parte di Effetto Giorno, soluzioni per bar e ristoranti. Vedremo quali sono le ipotesi sul tappeto, distanza di 2 metri tra i tavoli, ma anche possibilità di utilizzare gli spazi esterni per bar e ristoranti senza pagare nuove tasse. Questa è un'ipotesi che potrebbe diventare realtà. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi, decreto rilancio, governo verso l'intesa, stop all'IRAP di giugno, proroga della cassa integrazione e reddito d'emergenza. Silvia Romano attesa oggi a Milano, è viva ed è la cosa che conta, ora un po' di rispetto, dice il ministro degli esteri Di Maio. Fase 2 anche in Francia, da oggi inizia la ripresa graduale di attività commerciali e scuole. 2 metri di distanza tra i tavoli e possibilità di sfruttare gli spazi esterni, le ipotesi per bar e ristoranti, a Effetto Giorno ne parliamo col presidente Anci De Caro. E 16 minuti, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. E allora, come anticipato dai titoli, è con noi il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, sindaco di Bari. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, per parlare intanto di quello che appunto abbiamo anticipato, cioè una proposta che arriva dalla sua città, ma che insomma, come presidente ANCI è stata portata anche ai tavoli in cui si affronta la fase 2, e poi adesso il governo ha allo studio proprio oggi l'approvazione del decreto rilancio per l'Italia, e questa previsione di poter estendere l'utilizzo dello spazio esterno per bar e ristoranti, una previsione cruciale in questa fase, senza nuove tasse, potrebbe forse entrare. È giusto, entrerà, De Caro? Questo ce lo può... Sì, fino a ieri sera abbiamo definito l'ultima versione. Diamo la possibilità a chi ha già un'occupazione di suolo pubblico all'esterno di poter fare un ampliamento, e a chi non ha mai avuto un'occupazione di suolo pubblico di poterlo fare un nuovo ampliamento senza passare dai vincoli della sovrintendenza. Per qualche mese andiamo in deroga, perché abbiamo la necessità di far lavorare tutti, non si potrà lavorare all'interno, e chi aveva già degli spazi all'esterno, ovviamente col distanziamento sociale, non potrà mettere nello stesso spazio lo stesso numero di tavolini. Quindi, per tenere in piedi l'attività economica, cerchiamo di ampliare gli spazi all'esterno e cerchiamo anche di non far pagare. Poi noi sindaci non vogliamo far pagare, abbiamo trovato un'intesa col governo che rimborserà una parte della tassa. Ecco, perché questo va spiegato bene, perché le tasse sono tasse comunali, queste di occupazione del suolo pubblico, quindi se ci fosse, come dire, una previsione di togliere queste tasse, sarebbero minori introiti per i comuni, quindi bisogna fare o che i comuni rinunciano oppure una forma di compensazione. In realtà noi sindaci vogliamo aiutare. Io ho già approvato una delibera che in estensione allo spazio già che viene pagato per l'occupazione di suolo pubblico, basta una semplice comunicazione, non devo autorizzare niente, possono ampliare fino al 50% il numero dei tavolini, quindi l'occupazione del suolo pubblico, senza pagare nulla, ovviamente sotto la responsabilità del mio comune e del mio ufficio finanziario. Se diciamo che invece tutte le occupazioni di suolo pubblico nei prossimi mesi non devono essere pagate, è chiaro che ci vuole un contributo dello Stato, perché noi comuni lavoriamo come delle aziende, abbiamo delle uscite per offrire i servizi come non so i rifiuti o il trasporto pubblico, e abbiamo delle entrate. Una quanto parte potrebbe scusi De Caro se la interrompo, quanto potrebbe costare, diciamo, che investimento richiederebbe per il governo una misura del genere, che aiuterebbe credo non poco in questi mesi estivi soprattutto, ma anche più avanti, bar e ristoranti? L'importo può valere circa 200 milioni di euro, ma non credo che otterremo più di 40-50 milioni di euro dal governo. Speriamo che arrivino, speriamo che ci si pensi bene, perché è un piccolo ossigeno che però sarebbe vitale. Prima di tornare ancora sul tema, perché lei, avendo partecipato un po' anche a questi tavoli, sicuramente ci può dare anche qualche anticipazione su queste attività, cosa ripartirà, come. Le voglio chiedere però, visto che oggi ci sarà un nuovo confronto, se ho capito bene, tra il governo e gli enti territoriali, con le regioni che premono intanto per il principio di autonomia, chi ha meno contagi, come insomma, la Basilicata, ma anche il Molise, il Friuli, può restituire maggiori quote di libertà ai cittadini rischiando molto di meno. E poi c'è la questione delle attività commerciali. Lei, nell'equilibrio tra l'emergenza sanitaria e invece la necessità di ritornare alla vita produttiva, come giudica questo avvio di fase 2? Come è stato impostato, secondo lei? Il primo bilancio si può fare? Devo dire che i cittadini hanno risposto positivamente, a parte qualche caso di assembramento, anche nella mia città i cittadini hanno risposto bene, è ripartito un pezzo importante delle attività economiche del nostro paese, in particolare il settore delle costruzioni, il settore manifatturiero. Il primo banco di prova importante lo abbiamo il 18, perché riaprono tutte le attività commerciali, tutti i negozi, ovviamente ci sarà uno spostamento maggiore all'interno delle nostre città. Se riusciamo a ottenere delle linee guida da parte del Comitato Tecnico Scientifico e dalla cabina di regia per tempo, permetteremo ai gestori delle attività economiche di organizzarsi per tempo, perché in questi mesi dobbiamo convivere con il virus, non lo abbiamo sconfitto, e per convivere dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, utilizzare le mascherine, il gel igienizzante, ci dobbiamo abituare, diventa un po' come la cintura di sicurezza, magari prima gli italiani non la utilizzavano, oggi il 98% degli italiani la utilizza. La stessa cosa dobbiamo fare con la mascherina e con la distanza. Senta, oggi sono passati 7 giorni dall'avvio della nostra fase 2, no? Lei ha avuto modo di di controllare i dati per quanto riguarda il suo territorio, perché 5-6 giorni sono il tempo di incubazione, quindi forse tra oggi, domani, i primi giorni di questa settimana bisognerà capire come sta andando. Gli esperti ci dicono di aspettare la seconda settimana. I dati che stiamo vedendo in questi giorni, anche dei piccoli aumenti, sono legati al periodo del 25 aprile, 1 maggio. Dobbiamo capire che succede la prossima settimana. La prossima settimana avremo un quadro chiaro rispetto alla ripresa, se la ripresa ha portato ad un aumento sostanziale dei contagi. Un aumento ci sarà stato, bisogna sempre verificare che non torni l'emergenza sanitaria. E anche il numero dei contagi per le riaperture delle attività economiche, tornando al discorso dell'appuntamento di oggi pomeriggio tra le regioni e il governo in cabina di regia, è importante non solo il numero dei contagi, ma si tiene conto anche della velocità con cui quei contagi aumentano, quindi con cui si diffonde il virus, tiene conto del numero dei tamponi che vengono effettuati dalle regioni, tiene conto del numero dei posti di terapia intensiva, perché se dovessero aumentare i contagi e quindi le persone che hanno bisogno di terapia intensiva, c'è bisogno di un certo numero di posti letto. C'è un algoritmo con il quale avremo a che fare nei prossimi giorni, diventerà comune nel linguaggio di tutti noi, il cosiddetto R con D, quel coefficiente sarà il coefficiente. Ci darà la dimensione di come ci possiamo muovere. Delle possibilità di riaprire o di richiudere se dovesse avere problemi. Senta, per tornare, prima di salutarci, alla questione bar e ristoranti, lei come presidente dell'ANCI, anche con questa proposta di togliere la tassa per l'estensione della nuova occupazione di suolo, in modo che diventi un'arma strategica, stare all'aria aperta, occupare lo spazio all'aperto sarà una delle strategie, meno, io immagino, anche meno aree condizionate, più finestre aperte, più mezzi di spostamento individuali, eccetera eccetera. Cosa si prefigura? Distanze di 2 metri per bar e ristoranti? Questo che si sta lavorando? Plexiglass? Sì, no? Non abbiamo ancora avuto nessuna notizia. Il Comitato Tecnico Scientifico sta completando le linee guida per le attività economiche che riaprono il 18, che sono i negozi, e poi la cominceranno a lavorare per i bar e i ristoranti. Oggi col ministro Franceschini abbiamo visto le prime linee guida per la riapertura dei teatri, molto molto complicate da gestire, sarà difficile nel primo periodo tornare negli spazi chiusi, nei nostri teatri, negli ambienti chiusi, è complicato, sarà più facile nel periodo estivo riaprire qualche attività all'esterno mantenendo il distanziamento sociale, utilizzando la mascherina. Appena arriveranno le linee guida, credo che sottoscriveremo un protocollo da attuare all'interno delle città. Va bene, grazie per ora Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente ANCI. Buona giornata, grazie. Buona giornata a voi. Adesso facciamo un piccolo focus invece su Milano, in particolare la città di Milano, perché in questa zona i dati a disposizione parlano di un contagio che è sì sotto controllo, ma che non è ancora quello che vorremmo tutti noi che fosse. Vittorio De Micheli al microfono di Rosanna Magnano, lui è il direttore sanitario dell'ATS Milano, sentiamo. Per fortuna la dinamica dell'epidemia ha fermato il grosso del contagio alle porte di Milano, questa è la notizia, l'immagine più importante. In Lombardia la strategia è basata sull'arruolamento di un numero molto elevato di segnalatori, tante sentinelle che dovrebbero accorgersi in fretta dei nuovi casi e a cui viene già delegata la prima parte della profilassi, cioè l'isolamento. Quindi l'idea è avere tanti segnalatori in più di prima e questi segnalatori già incaricati di mettere le persone in quarantena. In poche parole, tutti i medici di medicina generale, tutti i medici del lavoro nelle imprese e poi anche tutti quei segnalatori che le varie leggi hanno previsto di istituire, per esempio tutti coloro che misurano la febbre all'ingresso nei vari luoghi di passaggio. E allora, lo avevamo anticipato, andiamo in Francia, è con noi Danilo Ceccarelli in collegamento da Parigi, ciao Danilo. Buongiorno, buongiorno a voi. Giornalista, collega da Parigi, appunto, come è andata oggi? Era previsto, insomma, l'avvio della fase 2, la ripartenza, è stato detto, graduale, eccetera, eccetera, però la Francia oggi si è mossa. Cosa è cambiato rispetto a ieri, Danilo? Allora, la Francia da poche ore ha iniziato appunto il suo ritorno progressivo alla normalità dopo 55 giorni di quarantena, anche se è importante sottolineare che la legge sul prolungamento dello stato di emergenza ancora non è stata promulgata. Il Consiglio Costituzionale la sta analizzando in queste ore e dovrebbe dare una risposta entro questa sera. Intanto il governo ha fatto appello ai cittadini affinché dimostrino il massimo della responsabilità. Oggi varie attività commerciali come parrucchieri, librerie, fiorai e negozi di abbigliamento possono finalmente rialzare le serrande, ovviamente nel rispetto di tutte quelle misure di sicurezza previste dalle autorità. Secondo quanto annunciato dal governo, questo lunedì riaprono 400.000 aziende per un totale di 875.000 lavoratori. Qui a Parigi, ma anche nel resto della Francia, la situazione al momento resta abbastanza calma. I grandi centri commerciali, che misurano più di 40.000 metri quadrati, come ad esempio le gallerie Lafayette, restano chiusi. Come in Italia, questo come in Italia, sì. Esattamente, però davanti ai negozi diciamo normali, con metrature normali, si vedono già le prime code. Qualche disagio da segnalare questa mattina su alcune linee della metropolitana parigina, in cui si sono visti degli assembramenti, si è vista un po' di folla, ma si è trattato comunque di casi sporadici legati ad alcuni ritardi dei vagoni. C'è naturalmente il divieto di affollamento, c'è nelle ore di punta, quindi chiaramente anche lì ci saranno le code, immagino. Esattamente, i trasporti pubblici sono oggetto di misure speciali, soprattutto nella regione di Parigi, l'Île-de-France, dove appunto, come dicevi, è stato previsto nelle ore di punta un'attestazione firmata, una certificazione firmata dal datore di lavoro. Si potrà accedere solamente con questo foglio. Certo, per disincentivare un po' l'affollamento nelle ore di punta, quindi diciamo puntare sullo scaglionamento orario degli spostamenti. Danilo, un altro attesa importante riguardava la questione delle scuole, perché Macron l'aveva annunciato: l'11 maggio riapriranno le scuole. Poi sappiamo che c'è stata un po' di titubanza anche da parte dei stessi genitori degli alunni delle scuole francesi, che erano un po' timorosi di cosa potevano andare incontro riaprendo scuole con affollamento eccetera. Qual è l'equilibrio che è stato raggiunto? Quali ordini scolastici sono quelli che sono ripartiti per primi? Esattamente, anche il ritorno a scuola sarà scaglionato, un ritorno accompagnato, come hai detto anche te, da tante polemiche in questi ultimi giorni. A tornare sui banchi saranno prima di tutto gli allievi delle scuole materne ed elementari, a cui seguiranno che rientreranno questa settimana, a partire da domani. Poi dipenderà molto dai comuni la data esatta di rientro. A Parigi ad esempio è previsto per il 14. Il 18 maggio poi sarà la volta delle scuole medie. Ti posso chiedere nel dettaglio, ma in pochi secondi perché poi ci dobbiamo salutare, come per esempio sono riaperte le scuole elementari con turnazioni, perché ci sono varie ipotesi in campo, no? Fare i turni, sì, metà in presenza, metà eccetera eccetera. Esattamente, sono previsti dei gruppi con un massimo di 15 studenti, e la priorità verrà data ai figli di quei lavoratori che svolgono dei mestieri legati a questa crisi sanitaria, come penso ad esempio medici, infermieri, poliziotti o vigili del fuoco. A Parigi la situazione è più complicata, vista le strutture che non sono state ritenute sufficientemente sicure dai sindaci, ma anche dai presidi. Quindi per le scuole ad esempio materne i gruppi saranno di bambini inferiori, saranno inferiori a 10 bambini. Danilo Ceccarelli, grazie intanto per essere stato con noi da Parigi. Avete capito dunque che per quanto riguarda questo tema cruciale per l'Italia della scuola, su cui non abbiamo ancora non delle date ma un piano, un'idea di quello che accadrà, non abbiamo ancora un piano per la scuola, e questo è una lacuna sottolineata tante volte, ma molto grave in questo momento per quanto riguarda il nostro paese. In Francia è stata fatta una scelta, quindi priorità ai figli delle famiglie dove si è lavorato per l'emergenza, quindi medici, infermieri, forze dell'ordine, protezione civile. È una scelta, se ne possono fare delle altre, ma insomma tant'è, l'importante sarebbe agire anche su questo fronte. 13:31, piccola pausa, torniamo tra un attimo. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Decreto rilancio in arrivo, stop all'IRAP, proroga della cassa integrazione, reddito di emergenza. Si ha anche alla regolarizzazione di 500.000 tra braccianti, colf e badanti. Produzione industriale in rosso. A marzo, secondo l'Istat, si registra un crollo del 28%. Silvia Romano è viva ed è la cosa che conta. Ora un po' di rispetto, così il ministro degli esteri Di Maio. Il punto di Alberto Orioli. Una parte della controffensiva fiscale all'emergenza per il Covid-19 si concentra ora sull'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, una delle tasse più sgradite alle imprese perché di fatto ha creato un carico fiscale sull'occupazione, visto che grava sul costo del lavoro. Il governo adesso sembra intenzionato ad alleggerire questo carico, anche su pressione della Confindustria, ma i dettagli sono importanti. Sembra che l'ipotesi studiata finora limiti l'intervento alle imprese fino a 250.000 euro di fatturato, quindi piccole, ma oltre 11 miliardi dei quasi 14 di gettito annuo dell'IRAP sono in realtà pagate dalle società di capitali, quindi imprese più grandi. Alcuni nel governo poi pensano di limitare la riduzione soltanto alle aziende che abbiano avuto un danno al fatturato di almeno il 33%. Il rischio è che con paletti e contropaletti è che l'operazione IRAP si riduca a un effetto annuncio di scarso impatto sull'economia reale, mentre sarebbe un segnale molto forte per il rilancio se venisse abolita e venissero cercate entrate sostitutive. E se magari questa operazione fosse accompagnata dal rapido pagamento delle pendenze che la pubblica amministrazione ha verso i suoi fornitori, cioè le imprese, cosa che vale almeno 12 miliardi. Sarebbe un modo per creare liquidità senza farraginosi prestiti bancari. C'è ancora tempo per fare la cosa giusta.